sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La crisi greca, Moody's avverte sul rischio contagio, in pericolo altri paesi fra cui l'Italia. Banca Italia, il nostro sistema bancario è robusto. Berlusconi, mai parlato di congiura, l'interim di Scajola sarà questione di giorni. Sicurezza stradale, è arrivato il sì del Senato, via libera targa personale e casco in bici. La brutta figura di Totti all'Olimpico, come dare un calcio a se stessi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la crisi greca all'indomani della giornata nera per Atene con i 3 morti. Κοινωνικής συνοχής αυτής της χώρας και της ζωής των συμπολιτών μας. Così il premier Papandreou in aula, in Parlamento, che sta discutendo il pacchetto di austerità del governo. Tocca al ministro delle Finanze Papa Costantinou difendere il provvedimento. La seduta è in corso, mentre fuori ci sono nuove proteste. Allora andiamo ad Atene con il nostro Vittorio D'Arold. Buongiorno Vittorio. Sì, buongiorno. C'è una piccola folla raccolta davanti alla filiale della banca Marcin Ignazia, bruciata ieri. Ci sono dei fiori, ci sono appunto le testimonianze dei tanti per il cordoglio del paese in lutto per queste 3 vittime, mentre cresce ancora però la tensione, si prevedono altri raggruppamenti. Oggi alle 17 sono gli anarchici che si radunano poco distante ancora appunto dal rogo a Papastimiou. Poi ci sono alle 17 sempre il sindacato Adedi, i dipendenti pubblici che si radunano davanti al Parlamento, e infine anche il PAME, il sindacato comunista. Ma l'attenzione degli osservatori è appunto sul passaggio al Parlamento delle misure di austerità che dovrebbero essere varate in giornata, forse anche con il voto di Neodemocrazia, cioè con il voto del Partito Conservatore, che ha subito ieri forte pressioni da parte del Presidente della UE Barroso perché si giunga a un voto unitario. Domani intanto il Premier Papandreou è previsto che vada appunto a Bruxelles a presentare il piano di austerità varato dal suo paese. Certo. Grazie a Vittorio D'Arold da Atene. Intanto l'Europa sta a guardare. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy hanno scritto una lettera congiunta in cui chiedono a Bruxelles il rafforzamento della governance economica europea per salvare l'euro. La lettera è pubblicata dal quotidiano francese Le Monde, che esce nel pomeriggio. La crisi finanziaria della Grecia rappresenta un rischio di contagio importante per le banche di diversi paesi europei, fra cui il Portogallo, la Spagna, il Regno Unito e anche l'Italia. Lo dice oggi un report della società di rating Moody's. Pronta la risposta poco fa di Banca Italia: il sistema delle banche italiane è robusto, dice Banca Italia. Ma a Lisbona sono riuniti i banchieri europei per il direttivo della BCE. A Lisbona c'è per noi Beda Romano. Buongiorno Beda. Sì, buongiorno. Il destino ha voluto che il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si riunisse questo maggio proprio a Lisbona, che è la capitale del paese più a rischio, il paese che potrebbe seguire il destino della Grecia. La riunione della Banca Centrale Europea non dovrebbe portare molti segnali concreti. I tassi di interesse dovrebbero rimanere stabili, naturalmente. Si discute sui mercati di 2 opzioni, ma che sembrano in questo momento non particolarmente d'attualità. La prima opzione è quella di vedere la Banca Centrale Europea acquistare obbligazioni pubbliche per cercare di calmare i mercati finanziari. L'altra possibilità è quella di reintrodurre operazioni di rifinanziamento a lungo termine di 6 e 12 mesi che la banca aveva cancellato, aveva annullato nelle ultime settimane. Questo perché i mercati sono estremamente volatili, estremamente incerti, e molti economisti sostengono che la BCE vorrà prendere posizione su questi 2 fronti. È improbabile in questo momento che la BCE decida qualcosa oggi, ma è certamente interessante capire qual è lo stato d'animo dei banchieri centrali, certo, nella conferenza stampa che il presidente Trichet terrà nelle prossime ore. Alle 2:30. Grazie mille, grazie a Beda Romano. Ed ora il rapporto Union Camere, presentato questa mattina con qualche timido segnale di ripresa. Alessandra Schepisi. Sì, e così segnali di fiducia, seppur timidi, nel rapporto Union Camere 2010 le imprese italiane hanno retto nonostante la crisi. Nel 2010 sono infatti previste 50.000 assunzioni in più rispetto al 2009 e per il 21% riguardano figure ad alta specializzazione professionale. Dunque rallenta l'emorragia di posti di lavoro con una contrazione che nel 2010 è dell'1,5% rispetto al 2% del 2009. Le imprese si stanno rimettendo in moto e lo fanno puntando sull'innovazione. Altro dato positivo, la voglia di fare imprese che rimane nonostante la crisi. Negli ultimi 12 mesi sono infatti nate 400.000 aziende. Il saldo dell'occupazione però resta sempre negativo, con 173.000 posti di lavoro persi. A soffrire sono soprattutto le piccole imprese del sud, ma come sottolinea Union Camere, l'Italia è uno dei paesi in cui la disoccupazione è cresciuta meno. Il punto di maggior flessione è stato superato, ha commentato il presidente di Union Camere. Anche per il ministro del lavoro Sacconi, il rapporto dimostra la vitalità del sistema produttivo, ma bisogna accompagnare questa vitalità fornendo le risorse adeguate corrispondenti ai percorsi di crescita delle imprese. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi e veniamo alle inchieste giudiziarie che riguardano il ministro Scajola e il coordinatore del PDL Verdini. Questa mattina ha rotto il silenzio il presidente del Consiglio Berlusconi, ce ne riferisce Elisabetta Fiorito. Sì, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è intervenuto qui alla Camera, una breve dichiarazione in transatlantico sul caso Scajola, sull'interim da lui preso dopo le dimissioni del ministro dello sviluppo economico, ma soprattutto una precisazione sulla presunta congiura contro il governo. Ma sentiamo quanto ha detto il Premier. Credo di non aver mai detto congiura in vita mia. Mai. Non è proprio, e perché devo consultarmi con anche gli alleati, con all'interno del governo, e quindi sì, mi sono preso qualche giorno di tempo per una decisione che deve essere ponderata. Lei un nome ce l'ha in mente? Ci sono alcuni nomi in mente. Per quanto riguarda invece l'inchiesta che ha portato alla dimissione di Scajola, si parla anche di un coinvolgimento del coordinatore PDL Denis Verdini, che sarebbe indagato per corruzione. Verdini replica che si tratta di una gogna pubblica e non capisce da cosa si deve dimettere perché non ha incarichi di governo, ma sentiamo quanto ha detto a Mattino 5. Di tutti i nomi che girano, ritornato fuori Anemone, io non lo conosco nemmeno, mai visto e conosciuto, ma dicono che sono indagato, ma dicono, io non so niente, io a che cosa mi dimetto? Mi dimetto da un lavoro quotidiano che devo fare, non ho responsabilità di governo. Ecco Elisabetta, stamattina due provvedimenti parlamentari importanti, quali sono? Allora, Piera, prima di parlare dei due provvedimenti c'è da segnalare la lettera del Presidente del Senato Renato Schifani ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia per una definizione a breve del disegno di legge anticorruzione e permettere la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Poi parliamo dei due provvedimenti. Oggi via libera la Camera del decreto legge sugli incentivi, ora passa al Senato, mentre è stato approvato dal Senato quello sulla sicurezza stradale che deve tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. E per il momento qui da Roma è tutto. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Il Senato, dunque, l'avete sentito, ha votato il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Sentiamo il ministro Matteoli. In un momento dove c'è una crisi sicuramente anche di rapporti tra maggioranza e opposizione, voi qui al Senato avete dimostrato che su provvedimenti di questo tipo è possibile aprire tavoli di mediazione. Io spero che questo sia l'inizio di un rapporto diverso tra maggioranza e opposizione. Su alcuni provvedimenti io credo che si possa trovare un'intesa. Voi lo avete dimostrato e spero che questo sia soltanto l'inizio di un rapporto diverso su provvedimenti che non hanno colore politico ma che interessano tutti i cittadini. Ma sentiamo allora cosa prevede esattamente il provvedimento. Tra le novità previste nel nuovo codice della strada ci sarà il casco obbligatorio in bicicletta solo per i minori di 14 anni, mentre il seggiolino per le moto destinato ai minori dai 5 ai 12 anni sarà operativo solo dopo il varo di un decreto attuativo. Non ci sarà lo sconto del 30% per chi paga subito le multe. Il no è arrivato dal Ministero dell'Economia e avrebbe comportato una riduzione del gettito dovuto alle sanzioni. Sempre a proposito di sanzioni, i proventi delle multe saranno suddivisi al 50% tra l'ente accertatore gestore e l'ente proprietario della strada, dunque tra comuni e Stato. Limite di velocità in autostrada rimane a 130 km orari, pene inasprite invece, tolleranza zero sull'assunzione di alcol per chi guida da non più di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente di categoria C, D ed E. Stretta sulla guida infine delle microcar e poi scatola nera sulle automobili. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. La proposta svuota carceri, l'ultimo anno di pena ai domiciliari, siete d'accordo con questa proposta e quanto vi abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio? Per il ministro Maroni quel provvedimento è peggio di un indulto. È il disegno di legge voluto dal ministro Alfano e che propone di far scontare l'ultimo anno di pena agli arresti domiciliari. Motivo: i nostri penitenziari sono al collasso. Ma la strada giusta per affrontare quello che è un problema non è questa, dice Maroni, e anche i nostri ascoltatori sono molto critici verso questa proposta. Addirittura il 91% di voi si dice contrario a questa ipotesi. Controcorrente è la radicale Rita Bernardini, giunta al 22° giorno di sciopero della fame per i diritti dei detenuti e che porta un dato a supporto del provvedimento. Chi accede a misure alternative, quindi anche gli arresti domiciliari, ha un tasso di recidiva, cioè torna a delinquere, diciamo, per il 20%, mentre chi sconta interamente la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68%. Bianco Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Al via il processo a Milano per i derivati, ci colleghiamo in diretta con Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Il rischio è quello della Grecia. Nei giorni in cui Atene brucia per il dissesto finanziario, è quell'orizzonte che il PM Alfredo Robledo indica all'apertura del processo sui derivati del Comune di Milano. Può essere uno strumento finanziario utile, ma va usato in modo corretto, altrimenti, ha detto a Radio 24, i rischi sono sotto gli occhi di tutti. 13 persone, tra manager, consulenti ed ex funzionari del Comune, sono a processo per truffa aggravata insieme a 4 banche, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e DEPFA Bank. E contro tutti gli imputati si è costituito parte civile il Comune di Milano, a cui, secondo le ricostruzioni dell'accusa, sarebbe stato arrecato un danno da 101 milioni attraverso un'operazione in derivati su un bond stipulata a partire dal 2005. È evidente l'assenza della politica, perché le banche, secondo il PM, dovrebbero avere un'assistenza tecnica finanziaria. E contro i 4 istituti di credito, Palazzo Marino, attraverso l'avvocato Grosso, chiede anche la citazione come responsabile civile per futuri risarcimenti. Il processo riprenderà il prossimo 19 maggio e per ora dal Tribunale è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Continua il maggio atipico di questo 2010. Dopo le forti piogge di ieri al nord che hanno causato disagi e danni alle colture, oggi il cielo è nuvoloso su gran parte della penisola, ma anche se nel pomeriggio ci potrebbero essere delle schiarite. Intanto l'onda di piena del Po ha raggiunto i territori delle province di Parma e Reggio Emilia e la Coldiretti segnala che si sono innalzati tutti i grandi laghi, con il Garda che ha toccato il massimo storico del periodo a Peschiera. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della crisi greca. Moody's avverte sul rischio contagio, in pericolo, dice, altri paesi fra cui l'Italia, ma Banca Italia rassicura: il nostro sistema bancario è robusto. E poi Berlusconi, mai parlato di congiura, dice, l'interim di Scajola sarà questione di giorni. Stamattina approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale in Senato, in arrivo la targa personale e il casco obbligatorio per i ciclisti under 14. E ripartiamo ora dalla giornata di voto per 45 milioni di cittadini britannici. Si vota fino alle 22. Stando agli ultimi sondaggi, il grande favorito è il conservatore David Cameron, che potrebbe mettere fine a 13 anni di governi laburisti. Ma quali sono gli umori oggi? Sentiamo in questo servizio. What is my employment security? Cosa accadrà all'occupazione, ai miei figli, alla sicurezza e alla scuola? È la domanda del primo ministro Gordon Brown. When there are a million people. Quando abbiamo milioni di giovani disoccupati e sanità e istruzione affondano nelle burocrazie, occorre cambiamento, dice il conservatore David Cameron. Noi lavoreremo senza tregua ed elimineremo le tasse sui primi 11 milioni di reddito, ribatte il liberal democratico Nick Clegg. promesse elettorali che in una Gran Bretagna, sommersa da un deficit di quasi 190 miliardi di euro, insospettiscono gli elettori. Nessuno dei tre partiti è onesto sui tagli che dovrà fare una volta al governo, dice questa giovane elettrice. Per sostenere lo sviluppo abbiamo bisogno di investimenti in istruzione, ma non li ho trovati in nessuno dei tre programmi, ribatte questo studente. Insomma, mentre solo 4 elettori su 10 oggi sanno per chi votare, per molti britannici non farà molta differenza. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Smog, l'Italia a rischio multa dall'Europa, interventi scoordinati, dice Bruxelles. L'altro ieri a Bruxelles i rappresentanti di 1600 città giunti da 36 nazioni si sono riuniti al Parlamento europeo per rinnovare il patto dei sindaci. Per gli amministratori delle città europee si tratta di un impegno a ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020. C'era Gianni Alemanno, primo cittadino di Roma, ma anche tanti, tanti altri sindaci italiani. Questo significa che perlomeno a livello locale sensibilità e impegno su questi temi non mancano. Lo dimostrano anche i piani di intervento antismog che sempre più regioni e province italiane hanno approntato. Basta collegarsi al sito del Ministero dell'Ambiente per leggerli. Eppure ora l'Italia rischia il deferimento alla Corte Europea di Giustizia e una salata multa per il mancato rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico. Perché? Perché in questa, come in tante altre emergenze italiane, a livello nazionale manca un piano coordinato di interventi. Un piano che del resto da tempo viene chiesto a gran voce dalle regioni del nord. Arriverà ora che anche il fronte politico è comune? Speriamo, ma mancano solo 2 mesi all'avvio del processo. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Chiede una cifra modesta, ma la pretende da un colosso come Tamoil. Fabrizio Della Mora, un tassista di San Severino Marche, porterà in tribunale la sua richiesta di risarcimento. Cala il prezzo del petrolio, dice, ma non quello della benzina. Sentiamo Della Mora al microfono di Matteo Finco. Ho denunciato la Tamoil per il semplice fatto che faccio sempre il rifornimento, quasi sempre, da loro. Chiedo un risarcimento della differenza che c'era da un pieno di qualche mese fa ai pieni che ci sono adesso. Quando stava a 120 euro al barile il gasolio non costava come adesso, che costa 80 euro al barile, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Il problema è particolarmente sentito per i lavoratori del settore, per chi con la macchina lavora. Sicuramente, infatti quello che chiedo io al governo, anche se non alla compagnia petrolifera a parte del rimborso, chiedo al governo di diminuire le accise, ma soprattutto per i lavoratori del settore. Lei non è un po' spaventato dall'aver citato un giudizio comunque un colosso? Ma no, assolutamente no. Anche perché io credo sostanzialmente di avere ragione al 100%. Poi mi fido della giustizia italiana e vedremo quello che sarà. Ed ora torniamo sulla brutta figura di Totti ieri sera all'Olimpico. Non ce l'ha il titolo sto libro? Non c'è neanche le pagine. La DSL, la chiavetta. Questa è la Internet Key. Chi? La Internet Key. Ma chi? Ciao. Internet per Totti. Per tutti. Ma che cosa succede a Totti? Possibile che di Totti ne esistano due? Quello simpatico, bonaccione autoironico degli spot e quello ringhioso, isterico e vendicativo che abbiamo visto ieri sera mentre rifilava un calcione a Ballotelli? Ballotelli non è uno stinco di santo, avrà pure offeso, come dice Totti, il popolo di Roma. Ma non è questo il problema. Da che mondo è mondo, nel calcio, quando si gioca una finale, le parole volano. E sempre pesanti sono. Basti ricordare la famosa testata di Zidane a Materazzi, reo di aver espresso un giudizio non proprio favorevole sulla sorella del fuoriclasse francese. Ma quella per Zidane fu un'eccezione, che proprio per questo fece il giro del mondo. Per Totti invece la rappresaglia da bullo di quartiere sta diventando un tratto distintivo, quasi una trasfusione dello spirito ultra nel calcio giocato. Aridateci Totti, quello simpatico dello spot, quello del calcio, di questo calcio. Lo lasciamo nello spogliatoio, come fa spesso anche il suo allenatore Ranieri. Che ha fatto ieri l'internet? Sarà il regista americano Quentin Tarantino a presiedere la giuria internazionale del concorso della 67esima mostra del cinema di Venezia che si terrà in settembre. L'ha deciso il CDA della Biennale di Venezia. E arriverà domani al cinema il film D'esordio di Stefania Sandrelli. Esce con qualche polemica perché sarà distribuito in pochissime sale. Ma la neo regista afferma: spero nel passaparola. Nel mio film Christine Cristina parlo di una piccola grande donna del 1300 come è stata Cristina da Pizzano, mentre ora le donne sono ridotte a essere solo merce di scambio. È un omaggio alle donne, il primo film da regista di Stefania Sandrelli. Credo che ci sia la grazia femminile, la forza e la grazia femminile. E proprio per evitare femminismo tout court, ci siamo avvalsi di grandissimi sceneggiatori che però hanno anche una sensibilità femminile, perché questo è molto importante. Io ho lavorato con dei grandi registi e la cosa che ho trovato in comune tra tutti i grandi autori con cui ho avuto, ripeto, l'onore di lavorare è che avevano una sensibilità femminile. È un inchiostro che non si scioglie, lo chiamano inchiostro della china. Voglio che le parole restino sulla carta e che si moltiplichino. La storia del film è quella di Cristina, che fu la prima donna a vivere grazie alla propria penna. Esce in poche copie, solo 20. La Sandrelli dice di confidare nel passaparola. Il protagonista Alessandro Haber si è un po' arrabbiato, ma anche per il linguaggio il film sembra già pronto per la TV. Se non sarà una pietra miliare del cinema, per i canoni televisivi a grazia e gradevolezza, quelli sì, femminili. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.